vicino al condominio di quelli nuovi, stai tranquilla, che ti fanno schiattare subito dove ti buttano fuori. Un po' mette a gridare, a letto. Presto a dir la verità, però talmente la mia era fusa stamattina, si è dimenticato l'apparato in macchina e poi stamattina quando sono entrato in stabilimento alle 9 l'ho tolto e l'ho ripiazzato in barra. Positivo, vabbè, e stai facendo bene? A parte che ho parlato con Pierpaolo e con vediamo un po' chi tutto c'era, c'era Papapone, c'era Gigi Vulcano. Si sentivano tutti bene? Poi ho modulato anche con, c'era Pomponio, e se non mi sbaglio Anima Lunga, è vero Pompon? Sì, sapevi che c'era stasera, anche è vero. Ieri si è salita anche dalle parti, cioè nella zona, però anche io ti sentivamo bene lo stesso, quindi. No, già vende con la parecchia, cioè, adesso poi sabato gli faccio gli aumenti urlati così sia a posto. Come metà con il batte a questo malattio, questo lo adesso io. Ho visto che già vende bene, gli avevo visto stamattina cosa ha giù fatto. Un demonio, eh. Io mi sto ascoltando e ho il volume del coso, delle cuffie quasi a zero, figurati tu. Mi sento tutto il casino che c'è dentro a casa, figurati. Sabato scorso, niente, ci si è stato tardi. tardi, un pochino tardi, dai, però comunque ha migliorato parecchio sia la ricezione che la trasmissione. Devo dire che posso migliorare, ma non mi posso lamentare, dai. Riprendi tu qualche cosa per l'amico numerico. Positivo, positivo, accetto. Come ti arrivo domenica le coordinate, cambia. Ciao Domenico, saluto di Barrado. Sì, Barrado di Antonio, Antonio Bombogno, che ogni tanto si fa sentire. A voi che mi faccio sentire io, è evidente che non ce l'ho amato, ma sempre mi ha fatto schiattare da qua sopra. Ti avrei accompagnato fin dietro con l'aghe, che erano monti, da qua, ma non ce la rimetto la stazione tra poco, ti faccio schiattare, mi faccio. Santiago 7 Radio 5, però con Bibuccio 31, quando staccavo arrivavo Santiago 3, 3.5 o 4. Diciamo che lì anche la zona ti favoriva, però era una potenza a quel periodo lì, veramente. Era una potenza sì, in quel periodo. Infatti l'ufficiale del posto è stato già avevo. Per il Valesco il posto cominciava a controllarsi macchine di CB, camion di CB, furgoni di CB, tutti i giorni era lì, puntato per controllarsi tutti i CB che stavano andando a bere con me. E cappa di positivo, sai cosa stavo pensando per la barretta che è giù in stabilimento? Dimmi. Affiancarmi un 747, tu cosa dici? Basta che vale 24, ce ne sono o 747 o 550 24 volts o il B750 24 volts, ce ne sono dei lineari. Basta chiedere, le affianchi uno di quelli, direttamente a 24, non c'è nessun problema. E cappa, così l'avrei alimentato anche direttamente dal baracchino, un po', perché con le 24 e con questo io sarei stato a posto lì, Avanti il becco. Se prendi quel lineare, un 550 oppure il 750 24, poi ti modifico i così, le resistenze, le mettiamo quelle più grosse e vedrai come ti quanto pompi in camion tu. Sa che si spaventa la gente, avanti break, buonasera Massimiliano. Cappa Rosi, buonasera, Pompone, buonasera Giuseppe Cappa. Sì, buonasera a te Massimiliano, benvenuto qui in rotta, abbiamo anche l'amico Salvetto che modula, avanti per i saluti. Cappa, salutori, Bulldog. Cappa Rosi, lo fai te, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. Uno di questi ci vuole, Giuseppe. L'importante è che vadano a 24 Massimiliano. Questo va a 24. Mannaggia, perché io volevo eliminare i trasformatori e tutte quelle cose lì, hai capito? Perché già ho preso abbastanza posto con il baracchino. A 24 costano un pochino, va. Ma comunque non fa nulla. Perché ne ha più da metà. Diciamo che aspetterò un pochino, dai, perché ho avuto anche la fortuna di prendere questo baracco che mi fa da 12 a 24 senza bisogno di trasformatore in barretta e diciamo che mi trovo bene perché come scendo dalla barretta lo piazzo in BM e stiamo modulando alla grande. È positivo, Giuseppe. Non c'è un problema, portare un cavo alla batteria a 12 addentro lì è un attimo farlo quel lavoro, capito? Dovresti farlo entrare bene, nel senso che quando tu sollevi la cabina non ti tira il cavo, capito? Bisogna farlo bene. Cappa Massimiliano, però per adesso ho le mani legate perché la barra è in garanzia e Giovanna Mercedes mi hanno detto ancora per il momento mai succederà niente, non toccare niente, infatti io ho preso la corrente da dentro, dall'autoradio, mi hai capito Massimiliano? È positivo, intanto in ogni caso dove attacchi il positivo ci vuole il fusibile, non è che l'attacchi a filo diretto così, no? E poi cosa c'entra? Stai mettendo un filo sul polo, capito? Non è che stai facendo altro, non stai rompendo la batteria. Vabbè, se poi ancora in garanzia, basta aspettare un pochino, non c'è problema. Cappa, adesso devo aspettare questo periodo, dopodiché gli faccio mettere mano come si deve, ti dico che si fa una cosa fatta veramente bene, Massimiliano. Aspetta, Giuse. Quanti tanti? Guarda che ci sono da Fusano, l'amplificatore lineare, ce n'è uno da 150 watt, si chiama L224, va a 24 volt, fa da 25 a 30 MHz. potenza massima 150 watt, poi c'è l'altro modello che è 250-300 watt, sempre 24 volt. Poi l'altro modello è da 250 a 300, è sempre 24 volt della REM, quindi basta la frusavo, chiedi quanto viene, te lo prendi. E K, va benissimo, Pupu, non c'è problema, perché io adesso mi devo fare anche un giretto d'orizzonte per vedere un pochino cosa mi conviene prendere. Giustamente è sempre meglio avere anche dei pareri, mi hai capito, perché andare così a occhi chiusi ancora per me, hai capito, non avendo le idee molto chiare su questi apparecchi è sempre meglio avere sempre dei buoni consigli. Ho capito, infatti, ascolta, questo lineare qua va da 2 MHz a 30 MHz, copertura continua, quindi va in classe A, B, C, hai capito, non è come per dire ZG che lavora di diverso modo, questo lavora in classe A, B e C. In pratica parte da 2 MHz a 30 MHz di copertura continua, così anche gli altri sono uguali, diciamo il 150 parte da 25 a 30 MHz, gli altri vanno tutti da 3 a 30 oppure da 2 a 30 MHz, quindi puoi attaccarci tranquillamente un altro apparecchio per dire funziona, anche se non è solo a 27, capito? Fai classe A, B, C. E K, appunto, per me, guarda, se fa così fa non bene, fa benissimo, molto bene, perché risolvo parecchi problemi allora in barra. Ci vuole comunque la geccia, se no non vende capita. Poi c'è quello che esce liscio con 25, c'è che esce liscio con 50, io con che potessi esco liscio, ma c'è 100 volte quasi di potenza da casa. Purtroppo non lo sto usando perché sono un incendio, perché con l'antenna che ho non lo posso utilizzare momentaneamente, quindi mi accontento del piccolo. Guarda, questo qua mi ha fatto di portante bianca e 18 modulati. Sì, ti ho capito, non hai capito da me il discorso che stavo facendo. Io purtroppo ho l'apparecchio che mi dà 100 watt d'uscita, già di per sé. Però per uscire a regime minimo mi devi dare 50. Se hai meno di 50 i finali rischi di creparli. Dopo il che vuol dire così. E quando uscivo da casa che dicevo, tanto lei stai pompando, certo è che sto scendendo con i 4, perché non posso diminuirli. Liscio, per quello che è, esci con 50, il discorso è quello. Solo che con l'antenna che sto usando in questo momento, non mi posso permettere di attaccarmi il cavolo, perché se no si incendia tutto, perché con il stazionale che mi dà l'antenna, rischio di aprire il ritorno e mi riduce il finale, costa 250 euro uno, figura di tu. E allora mi accontento di uscire con quello che sto usando, Saturn Echo, vabbè adesso l'apparecchio questo non è mio, quindi lo sto provando, ma cercare di dire come sono lisci. Lisci sì, ma molto non molto le finali con 5 volte, molto le finali che sono modificati. Non è più un apparecchio liscio, ma un apparecchio modificato sempre. Se poi deve attaccare un linearetto che è l'ingresso, cioè da 10 watt, così lo puoi attaccare tranquillamente, hai capito? Perché se no poi devi, come dice Pompulio, devi allineare, anche allineare, capito? Non lavorare, cioè magari poi esce anche tutto male. Invece con 747 tu gli dai 10 watt d'ingresso, 10 watt di paracchino e vai alla grande. Ti dà quasi 100 watt tutti tutti. E cappa, Pompulio, al posto di 15 tu devi provare 8 sabato. Sì, che te li posso dare. Non è dato questo baracchino che cambia da solo, è una cosa ben strana. Quando scalda cambia camera da solo questo baracchino, allucinante. Ecco perché non ti sentivo più. Ah, tutto un fatto, su 22 mi sono provato. Quando scaldo questi mobili con cambiava canale da solo, non so, già è capitato una volta con il Giuseppe Bittadue che cambiava canale, lo metteva in macchina nella punto, passava su 14, si trova addirittura sul canale 5, 6, cambiava la canale da solo. Baracchino automatico, dove sente voce si modula in automatico. No, c'è di difetto proprio, non è che sia così. C'è di difetto quando lo scalda, che è un po' di tempo che è acceso, perché io l'ho lasciato tutta la sera acceso qua a casa, quando sono uscito, il sono di cerzione. E in metà che vengono rinchiusi i piedi, che cosa accorgo, ma non è nulla. E posate di non rognate le chiusi i piedi, c'è. Oh Mario, anche con il GBT2 è fatta questa cosa. A volte cambia canale da solo. Buongiorno Mario, ben sentito. Mi sa che io spengo il baracco perché qui la lancetta ha fatto due volte il giro, eh. Ah, era bravo, non mi pigliare in giro, cosa due volte il giro, che sto uscendo liscio liscio. Guarda, qui sto uscendo esattamente 29 di Santiago e 5 di Radio, ancora un pochino e mi spacco il baracco. 29 di Santiago. E a posto di 9.30, 9.29. 9.29, sì. scusate, ragazzo di mese, là, volevo riprendere io. Vado a farmi la carica quotidiana. Ciao Mario, benissimo entrato, anche a te. Bulldozer, ci passa in stand-by. Niente, va, riprendo più tardi se coincide, se no buon 144 a tutti, vi saluto cordialmente, ciao ciao. Ciao Bulldozer, buona carica, buon 144, e ce la risentiamo alle prossime, vai Giuseppe. Sì, grazie Mario, Bulldozer, buona carica, buon tutto, e alle prossime quando coincide. Avanti, fai fretta. Scappa, ciao Massimiliano, buono 144 e ce ne riascoltiamo quando coincide, dai. Ok, riprendi a Torre. Ciao Massimiliano, ci sentiamo comunque del tipo in tutte le prossime. Stavi bene, buonasera Mario, ben sentito anche a te. Mi avrei ascoltato. Mi senti bene adesso col microfono? Problemi di scarica, c'ho nulla. No, ti sento bello, pulito, però. Stamattina mi sembrava che era leggermente più scurante quella radio. Come più scurante? Come si nota? Apra tu la verità secca. Eccola, 1:30 e l'amplificazione a manetta. Guarda, mi ho messo anche il coso stasera, ho spostato il CRC per poter risuire perché sennò usciva tutto con la scarica. A parte sono stato al microfono. Senti il televisore. Essere pure la giro da lì. Adesso mi ce la ricordo, guarda un po', è più forte. Così addirittura stai quasi entrando in saturazione, invece prima eri più basso. Oh, va bene, va bene, va. Adesso mi fate vedere il microfono, avete il microfono a 10, aspetta. Diminuiamo, vado a palesso, 1, 3, 4, 5, 6, come regolazione, com'è? Così è buona, vedi, perché si sente appena appena l'eco e non distrugge, non niente, bella chiara. Ok, va bene, allora lasciamo così, buh. Va bene, ti ho tirato lo coso, il modulometro dell'eco, perché a sassa non venne né da Fusaro né da niente, quindi l'ho ordinato. Sabato me l'ha risposto a Torino, vediamo come lo faccio arrivare. E così dopo piatto sia a posto. Capa, sono contento perché la mamma mi ha aiutato il baracchino nuovo. Così mettiamo il CVC anche con il figlio di qualche modo che sembra che con l'altro in pari, invece di il tuo era microfono. Senti che vedi già. Si intende? Ma è sotto il fondo, leggero, leggero. Io ho visto dove la camera da letto. Va bene. È distante, se no, a 15 di metri. Gappa, gappa. Buonasera Mario, buonasera, ben entrato. Grazie, grazie, meglio tardi che mai. meglio tardi che mai, Mario. Ben entrata, ben entrata. Sì, si entra quella che è entrata a nonna, e se no gli sei entrata Giovanna Giannisa. Senta, quella che è entrata a nonna, casa, no, già ci vuole, già, non me lo fa più la sessione. Perché comunque non ti avevo salutato poc'anzi, io sono entrato sempre da scorbutico di prepotenza. C'è stato un fischio sotto fuoco, chi è? Chi è che vuole entrare? Avanti, avanti. Avanza, avanza. Ho sentito un fischio così e fa che? Così. Anche io l'ho sentito la verità con questo apparecchio qua. E penso sapere chi è, sono uno che splattera qua vicino, cosa sta provando? Confermo quello che ha detto Falchetto, ha registrato il fischio anche Giuseppe, cambio. Figura di cazzo. Che stai vedendo un po'? Perché qualcuno evidentemente ha provato qua vicino a casa mia, in Antena Grande, adesso sa che piglia splattera anche... sia tu, sia io, sia quell'altro. L'altro addirittura distante, ma distante da qua. Oh, non è che ti è sbratti. Giuseppe addirittura ha accettato, figurati tu, Giuseppe l'ha sentito. Io ogni tanto se lo sentiva. Vedi, l'ha sentito anche Giuseppe, se ne vedete che... l'ho sentito, no? Adesso quello sai cosa fa, come la pubblicità della... Dove l'ha accomodato? Non mi ricordo cosa diavolo era, diceva... Suonava, è pronta la spesa? Mi prendi Giuseppe. Capo, perché? Ma quanti schiavi siete sotto casa, per caso? No, c'ho un vicino di casa, ce l'ho, che esce con l'antenna grande, ma io non penso che sia lui la verità, eh. Aspetta, avevo il dubbio, che spetta pure a te, cosa vedi, dai? A capo, io credevo che ci fosse qualcuno che stesse misurando lì, sotto casa tua, tutto lì. Io invece mi sono messo il seghetto in barra pesante, poco, poi ti spiego perché. Mario ci aveva conosciuto il segreto sotto casa mia, intanto veniva tutti i giorni, ti ricordi Mario quando andavo da Virizzito con la via 27 L, veniva tutti i giorni il segreto a misurarmi, dove stazionare, no? Veniva a misurare se stavo pompando oppure no, ogni giorno col furgone, prima il furgone 242, poi la cameretta, tutti i giorni diciamo il fabbro, ti ricordi Mario? Gappa, gappa gappa, Giuseppe, ma stasera, quando ti avessi sceso a scaricare, dove eri? Zona Tuncoreale? Diciamo di sì, dai, ero lì a Bancali perché avevo appuntamento con un nostro cliente che è salito da Ghero con un furgone e gli ho passato del materiale direttamente da lì per non scendere io giù la tagliera. Infatti poi quando ci siamo lasciati per 2 minuti mi ha chiamato e mi ha detto io sono già a metà strada, a me non è sembrato vero, anche perché poi ho risparmiato anche i soldi per gli ultimi, Mario. Cappagappa. Ero immaginata che eri in quella zona lì. Vabbè, ho detto, ora la bancale, me lo detto anche a tu, ora la bancale la procura reale. E cappa, io ti copiavo benissimo lì, proprio chiari, chiari, chiari, chiari. Ma a me mi ascoltavi anche se scendevi ad Alghero, mi. E cappa di positivo, Mario, ecco perché mi sono messo il segreto in barra. Ma perché volessi venire a tagliare l'antenna a me? Sì, me ne sono innamorato di quell'antenna, l'ho vista anche stasera mentre passavo, ho detto, non so se prenderla direttamente con la gru, come ti ho detto io, Mario, oppure farmi una scalatina lì sul coso del pluviale, che è anche più eccitante salire sul tetto da lì, no? Tipo un ragno, e piano piano tagliare un raso terra proprio leggero, leggero, leggero, in maniera che nessuno si accorga di niente. Mario. Era bravo Giuseppe. Era bravo che già lo sai che quando vieni qui ti chiedono il passaporto prima di entrare. A meno che non ci sia io fuori aspettandoti. Senti, di questo dove stai andando? Vieni, vieni che ti tagliamo le gambe prima di andare. E cappa di positivo, Mario, ho visto anche che c'è la sbarra e bisogna passare la tesserina lì, è proprio vero, se non sei conosciuto lì, hop limit, acting. Ma tutta gente tranquilla, stavo scherzando, stavo scherzando, niente di grave, già va bene, quando vuoi venire, o MDM, o con la barra, solo che per la barra la dovresti posteggiare giù, vicino al circolo, dove c'è la stazione della metropolitana, va. Altrimenti altri posti per piazzare una barra pesante qui vicino non ce n'è, a meno che non vai al grattacielo, ma è già lontano da qua. Non c'è problema, Mario, come ho detto, sempre un piacere parlare con te, modulare con te, come già ho avuto occasione di dirti stasera, la tua gentilezza è a dir poco squisita, a parte quando mi fai fare i 2 giri di lancetta qui al baracchino. Break, sì. Avanti il break, benvenuto Gianni. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti gli altri amici, senza dimenticare nessuno. Doppio rumo, avanti. L'avevamo capito Gianni, chiedi tu, Buonasera, ben entrato. Gava, ciao Mario, mi senti? Sì, ma io mi fermo sempre, si sa mai c'è qualche giorno nuovo che non mi conosce. Poi è sempre bello dirlo, a me piace ogni tanto un attimo metterlo in evidenza. Certo Gianni, siamo anche in compagnia delle buone Falchetto e delle buone Pomponio. Avanti Pomponio per i saluti per Gianni Lopero. Ah, Gianni, ben entrato, salutoni, eccetera, eccetera. Avanti Fiaschetto. Positivo. Buonasera Gianni Lopero. Salutoni anche da parte mia. Ciao, come va? Cavagava, tutto bene, Falchetto? Stava bene, tre bie. Mezzuga, già l'hai digerita con la roba là, sì. Cavolin. Anche io non ho avuto nessun problema. Eppure roba di mare c'è, dai. Comunque, mio compare non c'era perché è partito fuori. Mi hanno dato un posto a Firenze. Tu fuori a lavorare in un ristorante. Ah, positivo. Ma tutto buono, tutto genuino era, tutto ok, tutto cappa. Riprendi Giuseppe. Sì, grazie per il Mike Falchetto. Anch'io ho digerito abbastanza bene, a parte l'indomani mattina mi sentivo un pochino scalpitare, dicevano che si sentivano rumori di zoccoli oltretutto. Avanti Gianni. Ma chi non so cosa ne ha da dire. Andate, Mario, e voi, come vi siete trovati? Siete andati tutti lì? Guarda, noi tutto bene, siamo andati, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, la grande. Poi mi sembra che siamo andati via verso mezzanotte, una cosa del genere. Poi noi vecchi che siamo tornati a casa e i giovani hanno continuato, sono andati in un altro locale a giocare a biliardino e a farsi un altro cicchetto. Kappa. Già va bene, dai, in tanti lavati. Ma 22 o 23 persone lavamo. E arrivarsi. Voglia, va bene. Anche noi ci siamo stati bene, abbiamo mangiato veramente bene. Ma io non avevo dubbi perché il posto lo conosco. Poi ci lavora mio compare, ci lavora altre gente che conosco, quindi non c'è problema. Gappa, sono contento per lui. Io adesso, non lo so. Quando si vuole organizzare, si organizza e si va dove si vuole meglio. Io stavo pensando una sera di andare, non lo so, né pizzeria e né ristorante, andare in una di quelle, come si dice, tipo fattoria, che mangi tutta roba dal posto, che mangi bene a satietà e non, i prezzi non sono tanto cari. Agriturismo. Capa di positivo. Ma quello bisogna prenotarlo da prima, perché se no non te ne fanno. Se non è prenotato non ti fanno nulla. Io sono andato in una montagna nel Nuorese da poco. Abbiamo mangiato da buffarci. Tu ci ha fatto assaggiare anche la ricotta fatta dolce, guarda, un bel buono, col miele, non so cosa ci mettono in mezzo, è un bel buono. E Kappa, no. Io sono andato per esempio una volta lì vicino a Bancari e siamo andati in questo agriturismo, guarda, abbiamo speso poco ma a mangiare ce n'era, pure ho scelto negli aiuti la quasia e il nome non lo so, poi io ho letto Bancari, però non è proprio Bancari, non so se sapete dove c'è la tenuta Andrews dopo Bancari, quando stai pigliando la discesa c'è una tenuta lì Andrews e c'è un viottolo lì vicino, scendi giù e c'è questo agriturismo, guarda, che a dire che si mangia bene, e cosa non ci ha tolto? Trippa, agnello, porcetto, di tutto ci aveva tolto. La Kappa, ok, lasciamo il mic a Popò, va, avanti Popò. Poi c'è Giuseppe. Giuseppe, cioè, ma nemmeno di fammi con questi menù già così, già belli, io li vedo già sul vassoio questi menù. E magari con due olivette, due pezzi di formaggio, così tanto per diciamo sistemare un attimino lo stomaco prima che arrivino i primi. Giuseppe, poi se non vogliamo andare lontano, c'è una specie di trattoria lì vicino quasi a casa tua. E niente, si mangia la sassarese, c'è fine l'agnello, cordole, insomma un po' quello che si vuole, niente, non è neanche sia neanche tanto caro, però lo stesso bisogna prenotare via mercato. Ah, ma soprattutto ci si diverte. Per me quello che volete voi, io sono sempre pronto, non ho nessun problema. Ripeto, quando la compagnia è sana è sempre un piacere starci in mezzo. Quando volete mi fate un tischio, se volete organizzare, poi non lo so, vedete voi, io se si vuole fare sono disponibile, ti ripeto, questa volta per me non era possibile perché ci avevo altri impegni, così che non sono potuto venire, ma quando si vuole si organizza, o cucina sassarese, a mangiare cucù, ciocca gruscia, di tutto e di più. Andà bene Mario, se gli altri sono d'accordo, per me non c'è sta problema, sempre a disposizione. D'accordo, fate girare, fateci un pensierino, quando si vuole andare, quando, non lo so, quando un poco di persone sono d'accordo, basta a prenotare e niente. Ma è Antonio quello che c'è in via Coso, sempre c'è in via, ma dove c'erano le poste prima, Mario, appena più avanti del Rosario, via Arborea. C'è l'assassino. Ma c'è l'assassino, ce ne sono tanti, c'è l'altro, il fratello dell'assassino che è via Turritana. Figurati. Vabbè, ma l'assassino è già diventato un ristorante, Mario, perché i prezzi sono saliti adesso. Ma tu stai parlando, l'assassino quello che c'è lì vicino a Piazza Tola, o l'assassino quello che c'è andando a Sentino? No, quello che c'è tra Piazza Tola e via Rosea, là, che sembra quel vicoletto, si sale su. E gappa gappa. Li conosco io, non è che non li conosca. Io, te l'ho detto, sono come il prezzemolo e conosco un po' dappertutto, là. E tu, Gianni, quello che è di fronte al Camelot, la via che scende lì da Piazza Tola? Cava. Ho ripreso. Avanti, qualche. Dico, ho ripreso, ha squillato il telefono. Stavate dicendo? Niente, che se, come diceva Mario, se vogliamo organizzare quando tu, non tutti dico, quando siamo d'accordo, ci si può ritrovare, che ne so, faccio una mangiatina alla Sassarese da qualche parte. È positivo, la già va bene. Avanti già. Gianni è sparito, sì. Gianni è giunto un colpo di fame e si è andato a svolpega che cosa. O non lo so, E a quest'ora, guarda, vediamo un po' che orario, se riesco a beccare l'orologio. Sono le 9 e lo stomaco brontola, mannaggia, se non fosse stato per mangiare, guarda, sarei stato milionario già. Gianni non c'è. No, però c'è molto, io non so come, adesso non mi ricordo il termine esatto, però c'è molto disturbata oggi la trasmissione quando si rilascia la portante, non so se voi lo sentite. C'è molto QRM, dai. Esatto, non mi veniva proprio il termine. Qui QRM è proprio a manettone. Gappa, ma quando uno sta parlando già sparisce anche il QRM. Niente, ma a Pomponio ce lo siamo dimenticati. Pomponio, poco vuotudo, ci sì. Io il QRM ce l'ho ripreso. Mi ha ripreso. Avanti Gianni. Io no, mi sono rotto un attimino, volevo prendere il computer, 5 secondi devo guardare la posta e poi sto rientrando. contatti la posta elettronica. Antonio, se non sbaglio, mi sa che ha staccato, oppure mi sto ricordando male io, qualche tu ti ricordi niente di quando ha parlato con Antonio? No, negativo, perché stavo telefonando, Giuseppe. Antonio, con Antonio, si misese batti un corpo, avanti con Antonio. Antonio, dato il colpo importante, vuol dire che c'è. Avanti, per mano. Che c'è uno col BB? Quello che sia con Antonio, vediamo un attimino. Dopo, se sei tu, dai un colpo importante. Oh, per Paolo, Yeah. merito tuo, né merito dell'apparato, né niente. È la propagazione che si allunga e viaggi bene, capito? E invece quando non c'è propagazione non ti intendi comunicare il gioco, un bel dibusci. Va bene Gianni, è chiara qui come voce. questo ha la legge aperta e non è normale. Ah, K di positivo, dai, abbiamo registrato un altro break e a presto lo facciamo entrare in frequenza. Avanti con Polio. Attarigo e avanti. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera Natalina, avanti per i saluti. Gianni e Triviani, saluto a tutti. Come state, bene? Buonasera a tutti, comunque. Come non sbaglio. Buonasera anche a te Natalino, mi sa che ti ha un attimino sovramodulato antenna 1, se non ho sentito male. Mi potete dare conferma anche voi? Ci mettiamo in tomba. Saluto a voi, che ti porti? Non mi prende nessuno. Riprendo io un appalino per, non so se poco fa mi è copiato, per il benvenuto qui in modulazione sul canale 21. E avanti, chi stava parlando poco fa? Ciao Antonio, mi si muove sempre il mio dubbio, vai ci butto. Centrali e c'è questo ufficio che parlando? Allora io a me ne di Bobo non ho dato bene alcuno. Rambo, signori, intanto mi pare che deve stare un po' che non c'è molto la situazione. Io vi saluto a tutti, dico che vi approfitto anche a far caricare. E niente, ce la risentiamo alle prossime. Ciao a tutti, indistintamente. Se no mi allungo troppo a vedere il nome. Ciao, buonanotte. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario, ciao, buon tutto. Ciao Mario, ci sentiamo presto e buona carica. Ciao ciao. Ciao Mario, buonanotte e buona carica. Allora, toccale quella roba, allora io. Quella ho ordinato un po' antennavano, mi stanno arrivando anche quelli con il baracchino, nel caso tu vuoi parlare con l'aldilà, non c'è nessun problema. Poi la cosa bella è che non dobbiamo muovere manco le mani perché ha ricezione vocale per i canali, cambio. Ah, io lo tremendo queste cose, sono di voi, da di voi, io sono proprio arrabbiato. Superstizioso. Parlate tra di voi. Avanza. Vabbè, poca gente mi riappresta. Oh, Natalino, dimmi nel carro la razza d'antenna che ho per modulare con l'aldilà. C'è l'antenna con chi buio a voi. Con la morte punta, con la morte smutta. Bravo! Ma che cosa è questa antenna? Fammi sapere. Con chi buio è? Nella tiro, figurati che ieri sera sono passato e ci avevo attaccato un poligoma leopardato all'antenna. Guarda che c'è l'antenna 1, ma tu sei un buongiorno? No, però nello stesso tempo un po' di paura di certe cose. Per esempio, se c'è qualche paura senti attraverso un gatto, vero? No, non sono superstizioso, mi tocco solo e basta. Vai, un gatto nero con gli occhi chiari, lo so. Era l'ascolto ieri, stava ascoltando. Queste cose, Col gatto nero adesso, Mantè. Cavaga. Mannati. No, padre, tutto ma questo, devo controllare se c'è la batteria. Qui ma qual è? Di quelli di Caserecci o di quelli di un Parifa? No, non è Reggio, è piccolino. Capitolo subito la cassetta. No, già abituato, la parola. Capacapa, allora già va bene. Già va bene. Speriamo che sia coccolone come l'altro. Sì, molto coccolone, è già abituato anche a mia madre, ma caso non è qualcosa che è incompatibile con l'uccellino. Sempre. Ah, mamma mia, io credo che non l'abbia visto, un momento mi ha già pucciato la rabbia in terra, e poi su delle salie a campare una pontea, già dentro la rabbia si vuole entrare. Quanto ci avrà? Un mesetto e mezzo? 2 mesi e mezzo. Quindi già un po' grandetto, dai. Nel senso che più grandetto di come mi hanno attattiti, che avranno fatto 1 mese e mezzo a me. Ma cazzo, sembra che abbia le batterie. No, però comunque tutto sommato è molto affettuoso, molto socievole. Ma è logico, perché non lo sono di arrivare? Intesa per... No, ti ha detto, è normale, è logico, non sai come sono gli animali. Per voglio dire, ormai sono lui. Pagava. Antenna 1, tu animali ne hai? Ne ho uno, ne ho due. Uno porta fortuna e uno lo che sono gli sono due ragioni. Niente. Certo, ma sono sicuro che lui animale non mi ama, c'è la pianta che non è il mio. Le trasmissioni, cazzo, non posso ancora prendere, non c'è da cazzo. Ha detto che c'ha due animali, uno rubi con lui e l'altro porta chiave. Fortuna. Ma riprendi Giuseppe. Sì, volevo chiedere Antenna 1 se anche quelli non bevono il vino. Ma se non me la frega del vino d'Egitto, io sto parlando di altre cose qua. Noi stiamo adesso parlando di animali. Che animali ce l'abbiamo? Sì che non ce l'ha un animale in casa? Ma passo, punto di domanda, oppure mi sarà la figlia. Anch'io ce l'ho Antenna 1 un animale in casa. Ho un gufo grandissimo, nero, con due occhi grandi, sembra accesi, mamma mia tante feo si rovedi, guarda, prima o poi tutti dovete passare tra le mie mani. Io non aggiungo una pantera, una iana. Va bene. Mai tu, panteri. Vabbè, sei, le farfalle porterà bene. Un bagnolino. Dai, va, passo, ok ragazzi, vi prendo io, dai, che vi saluto e me ne vado tutto in QFT. Tutte le migliori e alle prossime. Salutone a tutta la ruota. Ciao ciao da parte mia. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao perché ci risentiamo presto, buon QRT, buon tutto e ci risentiamo domani. Salino, riprendi. Io invece c'ho una civetta qua. La civetta c'è? Sì. Davvero. Sì, va. Ciao, numero 2. Ciao, Ale. Mi mando dei saluti. Buona, spaghetto. Sì, ia, dimmi, per me. Poi qua c'è un problema. Allora, che malato, se ne intende, e dice che è femmina. È venuta mia sorella e dice che è maschio. Adesso ci ho messo un'altra cosa, che è maschio, che è femmina, che è maschio, che è femmina. E non finisce la famiglia, se è maschio, se è femmina. Facilissimo sta figlio, basta guardare il sesso. Oh, vabbè, io glielo guardo, ma non mi dice niente. Ma se c'è la patata sotto a sedere, che vuol dire che è femmina? La patata. Lavoro, KKK, una comunicazione di servizio per gli amici che stanno modulando sul 21. Io non lo so se voi ve ne siete accorti, ma avete sentito il vento che si sta sollevando? No, negativo, io sono curicato con le salve passate lo scrittura, Giuseppe. Io mi sono alzato adesso per vedere dalle alette delle persiane, vedo l'albero che sta dondolando, che è una cosa, è una meraviglia. Sarà mai strano. Tanto, solo quello ci manca adesso. Vedo anch'io. Scusate. Non ti abbiamo capito. Siamo quasi in primavera, scusa, abbiamo messo di ritardo con salto. Ecco, è felice, te lo ricordo. Vabbè, cosa stai dicendo, Giuseppe? Antenna 1, Giuseppe stava dicendo che si sta sollevando il vento. Vento? Ma è possibile, la veglia o... Può passarti alla finestra e vedi anche tu se vedi qualcosa muoversi, quello è il vento. E avanti per Paolo. Esatto, la prendo io, così non ci sono rischi sulla popolazione, vi sono tutti quanti con la buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti, ce li ascoltiamo. Ciao, ciao Pierpa, buonanotte, dai, avanti Antenna 1. Quando state sedute, pensavo, ciao Pierpa, abbiamo un po' di vento e basta, e ci sentiamo la prossima. Io sono senza vento, soffia. Antenna 1, e molla quella portante da bravo. Hai anche detto sia Antenna 1? No. Un attimino, scusate. Luca, che gli avevo? Ti faccio una massa. Aspetta. Sto caricando, vai, chiama. Pier Paolo è andato via, cavolo, non sono manco riuscito a salutarlo perché Antenna 1 era sempre con la portante attiva, mannaggia. Cavolo, però non si può stare la sera con ghiccio o con ghiccio. O si dà una regolata o se no basta. Giuseppe, scusa. Ciao. I saluti li abbiamo mandati e basta. Io sono stato stanco e non lo so. Grazie. Certo, Luca, io il telefono è sempre spento. Cazzo. Non è come fare un rai lassù, Ma aspetta, accendendo. È che sono caricato il computer per qua. Aspetta, Vai, prova adesso. Ciao Luca, ben sentito anche da parte mia, scusami ma non sapevo che eri qui in frequenza. Ciao da Giuseppe. Ciao Giuseppe, anche bianco. Mi sentite a me? Cappa, avanti, chi è? Un attimino che c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, chiedo chi mi sentisse. Buonasera, sono entrato. A Pomponio. Pensavo fosse qualche altra persona perché la modulazione non la vorrei conoscere. Ciao, ben sentito, ben entrato. Avanti, Antonio. Ciao Pompo. Buonasera, ben sentito. Volevo chiedere una cosa a Giuseppe. Sei soddisfatto di quella situazione là? Aspetta, non ho capito cosa mi hai detto. Dimmi Antonio. Sei soddisfatto di quella situazione là? È capa di positivo. Ma cambiato tutto, vero? Sì. E a te cosa sembra? Buona. Andrà bene, poi sabato ne riparliamo ancora in verticale. Capa. Però già sono contento, già si è confermata quella situazione. Ok, va alla grande. Tanto. E se non sbaglio aveva chiesto di entrare Pierpaolo. Pierpaolo, se ci sei avanti. Joseph. Oh, certo, scendo io. No, vale. Quello è un po'. 1, 2, 3, 4. Ci Santiago Sera, riuscivo di... Ma meglio qui, cioè, vabbè, metà metro va a fare adesso, metà un attimo di metro va a fare. Su quel remme bombe basso, sta. Ecco. Boh, non lo guardo, ma fa avanti. Allora, che cosa ti sei? È positivo, Pierpa. Allora, Luca, mettiti d'accordo con Giuseppe, è lui il... Mi fa uno squillo, Dov'è il problema? Vai. 347 54 54 201. Segnato. Hai detto 54 54 201. Perfetto Luca, vai. Ci aggiorniamo domani allora. Positivo, ma sono mica quasi troppo alto qua. E sei incomprensibile, però da me troppo forte. E adesso Luca. Vai, parla. Adesso come mi senti? Giusto, vabbè, adesso lo usi benissimo. E come se io sono messo, quindi come mi ascolti? Io sono al massimo adesso, vai. E fai un passaggio lui di nuovo. Faccio al massimo, 1, 2, 3, prova, prova radio, vai. Stai arrivando a 9.25 e di Santiago e Radio 5. Tu lo stai facendo lo squillo? No, Lu. Luca, e a me come mi senti col segnale? Basta. Sì. Tipo Ponio. Guarda, c'è stato l'apparecchio, quello del camion. Luca. Luca, come mi senti con il segnale? Faccio. Che cambio? Luca è al telefono, antenna 1, ti rispondo io, Santiago 9 e Radio 4. Ciao Roger. Io non ascolto questa antenna 1, che capolore. Avanti Pomponio. Ho detto io questo qua, non lo ascolto. Mi hai caso, c'era Pompone, c'è Pompa, cazzo, era mi chiamavi, devo pensare, cazzo, scusa, cazzo. Antenna 1, guarda che anche se non ti senti Pomponio ti fa un culo grande come la zimboia di Santa Maria, temi. Non ho compreso, non ho capito. Niente, che Pomponio non ti sente, non ti copia. Pomponio, antenna 1, sta modulando da Piazza Pola, da un po' andiamo e gli buttiamo giù l'antenna. Sì, lui se ne va di là, se non trova, se no io abito pensando l'altro. Hai capito? Quindi dici che si comporti bene, se no non ci metto molto a chiedere a vecchie quando ci dica che tu non hai centro storico senza concessione, senza niente, è aperto il modulare, non è il primo uno che fugge. Giuseppe, c'è una cosa? No, non ci sono, antenna 1, sono uscito. No, Ale, non vedo il mio film, ma... di cosa fare, non dire, vedo come lo si mette. E che non ti attacchi la 380 del culo! Cazzo, dopo ti chiamavo Falcone che era guasto, ma questo se ne frega. Senti adesso. Ascolto, quella magnetica basso l'ascolto, con l'altra calda, con l'altra tela non l'ascolto, ti giuro. Con la magnetica l'ascolto con un Saturnecco, ma basso, non capisco cosa dice. E anche lo Saturnecco con una ricezione allucinante, altro che evacuare. Domani scendo giù, domani posso scendere, non posso attaccarmi niente, se no avete attaccato l'antenna lì al centro storico, l'avete fatto subito perché vi aida. Non ci vuole molto a sapere chi è lì al centro storico, ci conosciamo tutti. Basta chiudere al circolo e non c'è problema chi è quello. Il giorno prima, ieri stava modulando con me, hanno cominciato a uscire scintille, dice che ha sentito un rumore come se si fosse rotta una bottiglia, e poi si hanno cominciato a uscire scintille dal come si chiama, il riporto l'ho sentito anch'io da qui, maledire. Ehi, compatto la GBC, CT, deve essere una parte magari. Sì, pure due appegliassi una cosa del genere, guarda, proprio senza... ui ui, avrebbe fatto una cosa del genere, e invece avrebbe rimandato la vecchia, vecchia umida. Cosa vedi, la cintiere c'è un giorno che non lo fanno più. Infatti, fuori produzione, lui mi ha detto, ma a me di quello lì non mi interessava. Addirittura dice che ha guardato su un vecchio cartello che ha trovato con linea di vita, però che montava la 509 come valvola, invece qua c'era la 519, dice magari anche a seconda mano. No, no, no, già ci sono, io l'ho avuto quel lineare con la 519. E l'unica cosa che c'erano in quel lineare erano i condensatori saltati, quelli rosa, di color rosa. Ma va, regalato a coso, Mario Pire. Poi dovevo ripararlo, invece l'ho lasciato lì, ho detto, ah, tal cosa, è troppo azzico che non dovevi spendere neanche una lira di condensatori, ho detto, ah, pazzico, fottiti, perché l'ho lasciato lì. È un uomo nuovo, in pratica quello lì montava due valvole da 50 watt, dopo è stato modificato con uno da 100 e montava il 519. Ciao. Ciao Antonio, ma no, e allora? Mai. No, non so chi sei, se dici chi sei io dico come vai. Va bene, allora no, bugia, bugia, bugia, bugia, bugiato. Cazzi, tu mi si incendia tutta la macchina, non intendiamo più. Se di la mano non lo so questa ieri, cazzi la mano, cazzi te giorni, no, che cazzo, rompi le palle. Ah, allora se siete dei compagni, sono rompe il fatto, gli altri, ma... Oh, io l'ascolto di bello, perché per la terra. Ascolto, con l'antenna della magnetica attaccata al letto, questa è stata con l'antenna della contento. Mi dovevo fare i ritirai, salienti, che non vieni i fattori. Faccio, assai tu. Faccio. Vabbè, che frega, te l'ho lì. Ci mancava Falcone, adesso c'è questo, piglia il suo corso. Sì, lascialo parlare. Almeno si compra l'antenna come si deve, gli tombe, il barchino. Deve essere in qualche caseggiato vecchio, all'ultimo piano, al secondo piano, perché lì le case sono tutte tre piani, non è che siamo molto alti. Cazzo, bravo, la roba è scarpa, tu non lo senti, ma lei già lo sente, fatti di cosa, bisogna farlo ritirare e basta. Se non mi va bene, cazzo, hai fatto un bel discorso, cazzo, lo posso ritirare io. Santa lì, che ci passano le attività, in cosa, mi ha questo... per te. No, è giallo per te. Vabbè, un pacco di bufalo, sì. servizi, chissà. Gala, gala. Tu sei qua di capo vedo, eh. E stai fatto l'acqua della violetta. Ma sono io, no? No, sarebbero quasi 9:20 qua. Allora che sono andato, sono tranquillo. Quello Giuseppe non passa, Giuseppe e Pierpaolo. Forse Gianni e Natalino. Tranquilli qua, dai. tranquillo. Gianni? Ciao Gianni. Comunque, io mi sono stato zitto perché non si può modulare con una persona così che ti rompe le palle. Già ne ho uno qua che rompe le scatole, immaginiamoci con una persona così, ce ne stiamo qua e siamo tranquilli, beati, e nessuno ci rompe le palle. Prego, prego. Via, siamo qua. Eccomi qua anch'io. Almeno adesso attacca quello che dico io, ora. Ciao, figlia, sono un po' e più buono. Chi sei? Gianni, attento Gianni. Gianni non lo prendo, voi? Sono andato a avvisarlo io. Cioè, l'hai fatto come ti ha fatto? Pomponio, il 19 Alfa, penso che ce l'abbia. C'è il gas. Secondo te come sta fatto già? Non lo so. Io lo sto chiedendo perché non lo so. È successo, se non sono indiscreto. Ho detto, come hai fatto a avere il 19 Alfa su quell'apparato? Io? Campa. No, ho sempre il Maxon qui. Già lo conosco bene io cosa c'ha. Perché nel mio non lo posso avere? No. E per questo? Per qua. Nel Maxon sì, ma nel tuo non penso, fare. Infatti ringrazio. Ma è questo 8001 grosso modo che è giusto per avere almeno un'infarinatura, che valutazione potrebbe avere? Antonio, ha per immagine questo giorno in casa? com'era quell'indirizzo che l'ho perso che mi avevi dato per controllare quella cosa in internet? Non ho copiato. Non ho capito con l'eco. Natali, tu che l'hai digitato nel computer, com'era? Comunque lo hai detto. Allora, cambiamo le parole. Otranto, Roma, Genova, 8. Yes. Vedi sta mazza di Zuzunio. Gianita è tutto. Un po', e manco male non l'ho aperta la pagina, perché ho detto vado a farmi un giro a vedere qualche microfono così in internet, e meno male qualche diavoletto dietro di me ha detto: Giuseppe, non schiacciare invio. E meno male, se lo guai. E ho detto: Giuseppe, che c'è un microfono in una la pambaggia vostra casa e aggiù mai vi potete avere. Ah, Natali, hai visto la razza di video che si è aperto? Video pornografico come minimo. No, non era pornografico, no, era mazzetta e saltello. Porno zozzo. Yes. Era un film di guerra e pace, cosa avete capito? Che vegliente malizioso ami Gianni in giro. No, prova a digitarlo Oristano, Roma, Genova, Otto, e vedi un pochino che microfoni ci sono lì in circolazione. Ci sono anche quelli da tavolo, eh? No, io con tutti io c'è poco da girare qua, abbiamo risparmio i soldi. L'ho digitato, che non lo già. Ma scusate, è Tubeo. Tubeo, vuol dire? Ma tubo come tubo? Tube, di ustaccio. YouTube, 8, quindi vedi il porno 8. No, tube, non è YouTube, usavo da YouTube. Tubeo. E Tubeo, tu Tube, sì. No, ne Bonponio, non esce Tube 8, esce Torino, Udine, Brescia, Empoli, Nacchi, ma però. Ma io sono tonto, capito? Io sono come quello della calotte, che capiva. Monello. Vela 5 a canale 5, cambio, Natalino in Oesesima però. Giuseppe, che combini? Niente, io sono qui che sto disegnando in un pezzettino di carta, anche perché ho le spalle e gente alle spalle che controlla, quindi le portatile bello chiuso qui sotto la scrivania, cambio. E cosa sta controllando? Non c'è problema. Annaggia, è sempre solo per quella cosa lì, poi mia, te ne immagini? Antonio, l'uso di tardi. Avanti, Antonio. Ma sono rientrato. Il computer ce l'ha fatta, ma adesso no. Che peccato. Da quando si non fa, non si trova, ci sono microfoni da tavolo. Ah, lo è, tutti tipo i microfoni ci sono. Il negozio cos'è? Ti fanno vedere anche i filmati, come funziona tutto qua. Già se impara niente. Di microfonini eccetera eccetera, non è che non vuole la laurea, no? Oh, ci sono io qui adesso sul sito e ci sono microfoni, cuffie e un po' di tutto, caspita, complimenti per la trasmissione. Anche allacci. Ma il più bello è... com'era quel sito già, dove c'erano tutti i cosi? Dove c'erano le radio modificate, gli era 48 e tutti quei cosi lì, tutti quegli apparecchi lì. YouTube, grazie, cosa ti dei buoni? Metti YouTube sul marciatore di ciò che te lo va. Grazie, ma io ti dico vedere dove ci sono tutti i cosi. Gli apparecchi modificati, gamma! E tu metti Alan 48 modificati, te lo va. Ma devi sentire, Giuseppe, modulazione allucinante. Addirittura. Sono tutti camionisti. Ce n'è uno che c'ha 5-6 apparati dentro il pullman. E non ha una casa, allora quello vuole arrestato, cosa fa? Guida o modula quello? No, no, trasporta gente che modula e quindi tutti lo possono usare. Cazzo, chiamalo scemo quello. Vai su YouTube e metti Alan 48 modificati e poi ti porta solo sui camionisti, tutta questa gente qua. Molta gente, camionisti però. Vero, tutti maniaci, col calendario delle donne nude dietro. Per carità, non guardateli quelli, c'è quello di Olbia, Madutrotto che sempre me lo procura il calendarietto, muy muy bello. Bello, bello, c'è il camionetti, verano sempre sotto, si faccia lentamente la banca. Oh, Antonio. Ah Giuseppe, Maludrotto cos'è? Un pompiere, un vigile del fuoco? No, Maludrotto è un'officina industriale che c'è a Olbia. In pratica sarebbe lo zio del pugile. E io praticamente ne conosco uno di Maludrotto, che è quello che... Vabbè, ci abbiamo praticamente un amico che è continente, per farla breve, ci ha comprato due o tre case qua, e lui li fa la manutenzione, mi sono maledotto, però vigila il fuoco. No, questo che conosco io è come ripeto, un'officina di riparamezzi pesanti, no, a Olbia, è proprio nella zona industriale dove vado a scaricare io, e ogni volta che mi vede mi mette sempre da parte il calendario. Appaga, hai visto che gentile, e tu ce l'hai appeso, sei come tutti i camionisti. Se no che zozzerie possiamo fare? Il calendario è d'obbligo in camion. Andare, e poi devi girare per l'Antalino, Sì, avanti, rilanciamo immediatamente il Mike al buon Natalino. Tutto tuo Natalì, avanti. Va. Noi camionisti sì che ce l'abbiamo duro. Almeno Natali e non è manco buccia di gioca. Anche tu camionista, sì. E cosa sono secondo te? Io non ti ho mai visto un camionista. Marca pure la banca. Tu non hai mai visto un aereo laggiù con un camionista. E continuano a farlo. Vita dura questa nostra dei camionisti, mannaggia, zingari della strada. No, già è bello, per chi piace. Ah, Natalì, hai visto, ti è piaciuto come ho allestito la cabina dentro? Sì, non c'è stato manco caso come ho allestito dentro. E non hai visto manco le bandierine sul parabrezza? Sì. Fanno molto folklore quelle. E cosa c'è disegnato la bandierina? Niente, tutte le località dove sei stato. Avanti Antonio. Capitano sei di Cudini 1. Mionisa. Via. No, di picchiarlo no, di vestirlo sì. No, non sprechi bisogna acclamare. No, poi mi scoccia, sai, il sangue è appiccicaticcio e mi dà fastidio tra le dita. Ma non ti sei mai afferrato? Oh, io mai, io non... prima di fare le cose, il 99,9% prevale sempre la ragione, e va bene così. Beh, perché se ragionare sì. Sì, poi quando non sanno, trovi quelli che non sanno ragionare, c'è il palanchino in cassone. Il vostro picco? E certamente che sì, caro Pomponio. Avanti. Andiamo bene. Alessio, hai capito? Ho capito che è Alessio, ma io non riesco a sentirlo. Se sta andando, mi sta peggiorando con l'antenna Alessio. Vivo la manto, ma avevo poco di radio. Sì, vabbè. Un'antenna buona ci vuole. Io non so, ci vuole l'antenna buona, anche la piazza. Quindi ci riesco meglio con l'apparecchio di mani che con il mio Saturnetto. Giuseppe, ma mi è giunto in mente una cosa, il ragnetto su ce l'hai messo, in punta. È tappa di positivo, Antonio. Ma non lo vedevo. No, c'è. Lì ce l'ha messo lo scanizzante, Giuseppe. No, nel ragnetto no, l'ho stretto bene. Ma quello lì, lo sai cosa succede? Si spacca. Col caldo si spacca. Io l'ho tagliato, ho tolto le zampe, il tappo l'ho siliconato, poi gli ho passato tutto quanto l'organizzante sopra. E va bene, dai, adesso diciamo che è andata così, poi non ti dico adesso, ma magari qui là tanto non credo che si stia spaccando questa estate. Alla prima occasione, quando riesco di nuovo a salire sul tetto, vedo un pochino di riscenderla questa antenna e fargli un attimino di manutenzione e sistemare di nuovo bene quel ragnetto e vedo un pochino se riesco a tirarla su di altri 2 metri, non di più, ma giusto per... visto che sono su me, mi hai capito? Sì, anche 2 metri vuole tirare, anche di più, almeno 5 metri deve sboccare fuori. E cavolo, ma 5 metri, cazzo, ne butto giù qualche elicottero qui mio, io già. Ma cosa, non lo butto io che sono più alto di te. Ma vediamo un pochino adesso, dai, come si presenta la questione, anche perché visto da giù ti dà un'impressione, però una volta che sei sul tetto mi sono reso conto che ho proprio campo libero per come è messa l'antenna, già. Già va bene lo stesso, se no ti renderei conto di tutto il resto. Poco si vede. Come altro? Sì, si vede poco, però l'importante è la resa, mi hai capito? Perché? Hai visto quando voi eravate giù in strada? Se io mi giravo dall'altra parte, io vedo tutto il golfo, si vede le cose di Stintino, la Samona, la Zinara, lì è tutto campo libero, cioè l'antenna lì sta lavorando a pieno regime. Sta sicuramente in quelle zone a ripe. Sì, perché io lì, ma poi devi vedere anche sul tetto, da giù sembra che sia bassa l'antenna, no? Però essendo sul tetto i radiali erano altezza mia, no? Grosso modo, altezza del mio viso, però devi vedere tutto libero, se addirittura io dicevo che vedevo anche l'antenna di Gianni, ti ricordi Gianni? Cava, ma non era la mia, era di Salvito sicuramente. Sì, magari lì avrò sbagliato, però per dirti come lassù il campo è più libero, mi hai capito? E vista da giù anche a me sembra un bel passo, però una volta che sei sul tetto e ti metti proprio a fianco all'antenna e a fianco ai radiali, proprio ti rendi conto dello spazio che ho, tutta la parte di Sassari Vecchio è proprio libera, libera, libera, libera. Ho detto che Sacro Cuore era una zona buona, io ci ho modulato per parecchi anni e so come la zona. Stai dicendo arriva con l'OV5. Non sei riuscito importante. E forse ho schiacciato male, guarda adesso. Adesso sì. Comunque c'era la vittina che ho. Penso che l'abbia stretta. Io pensavo che eravate tutti andati a nanna. Bonsoir, diciamo, dai. No, io sto andando a nanna, dai. Ho fatto una girata al canale, dai. Beh, vi saluto e ci sentiamo tutte le prossime mille. Buonanotte a tutti. Ciao, fa freddo, anche ti dice la canna. Cappa, cappa. Gianni, senza contare poi tutta la veduta che avevo su di Osilo e compagnia Bella, è proprio nitidissimo dal tetto, e ti ripeto, sempre ad altezza dei radiali. Un giorno ti faccio un regalo, ti faccio salire sul tetto, ti faccio vedere cosa vedo io dal tetto. La mia antenna sicuramente. No, tutta Sassari, tutti i paesi di ritorno, tutto il mare. È una cosa, uno spettacolo. Sì, ci credo. E tu figurati, io essendo più basso di te, cosa tutto vedevo alle mie spalle. E proprio mare bello, pulito, ma ti dico, infatti poi quando ero su dicevo al tipo che era vicino a me, detto, ma se qui non leghiamo bene quei tiranti, vento da quella parte, sai quanto ne prende? Perché è tutto libero, libero, libero, libero. A proposito del tirante, ci sono capitato al produttore di una ferramenta e ho chiesto il prezzo del tirante, loro lo vendono al chilo. Comunque abbiamo fatto il conto in euro e mi ha detto che non viene manco 45 centesimi quel capo che loro volevano un euro, che pure volevano di più, 2 euro e passa. Ha detto che sono pazzi, che secondo lui si è sbagliato. E fate il conto, la cassa vi ha fatto 3,30 euro per 50 metri, e fai un giro di conti, se io gli potevo dare 200 e passa euro per 50 metri di fune. Comunque io l'ho comprata qui, te l'avevo detto, in via Pascoli, la Masia, e 30 centesimi, e ci potevi trainare un camion con quella fune che ho preso per quei tiranti lì, e l'ho pagata a 15 euro. Fregatene, già è così. Ma chi non è possibile che costa di più, la 50 metri ricorda che era un tempo. Gianni, già c'eri anche tu a fianco a me, e io credevo addirittura che non era mio quel conto quando ho visto 224 euro lì nelle cose della cassa, no? Ma poi gli si rese tendi ridinando, ha detto, ma a me sta aspettando signorina, e dice sì, è la roba mia, casa che mai mi parlo in chili. E tu sei stato bianco. Sì, ma infatti già se l'hanno tenuta quella fune lì, dai, e vediamo di girare un attimino, già forse abbiamo occupato troppo spazio, e Natalia, avanti. Io vi saluto, che me ne vado a letto, è tardi, ci sentiamo nel prossimo, va? Buon riposo e ci sentiamo a presto. Ciao, Tali, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime. Ciao, Tali, buonanotte. Avanti, buon punto. Io già sono andato a fronte, Natalino, ci sentiamo, alle prossime. Io ti ho rilasciato il mic, non per salutarlo, ma ti ho rilasciato il mic. E allora, facciamo così. Cosa vuoi dire? Tutto scelto di Mario, sì, non è che si... Non lo posso, ma non lo smette, ma già l'ho visto. intanto che apparecchio per coro che stai usando? Il tanto lecco che ho usato, quando piccolino, piccolino. Cazzo. Adesso me lo vendo, guarda, se Giuseppe mi fa un'offerta, se mi dà, come ti posso dire, 50 litri di benzina agricola. E facciamo una cosa, dai, 20 euro e 10 litri di benzina agricola. Vabbè, io questa benzina agricola per mettere fuoco alla pietra di Santa Mora, peraltro, perché voi così. Cazzo, bubu. Già. Non direi che riprendi la liscia, la moto vuole fare. Ma vuole fare? Fuori fuoco alla pietra di Santa Mora con la benzina. Che sto caso scemo, me che non ti insegna nemmeno. L'inverno già piglia fuoco, non ti preoccupare. Infatti no. Ma non è che vuoi fare un barbecue all'aperto, no? Ma che tu studi cosa voglio fare? C'è un po' che gli altri ambiti del fuoco. E mi ribraccio di gli altri cavano a fura. Ah, c'è un po' che vengo qui l'altro giorno, già, non te ne voglio dire nulla, mi. Tutto pieno era. Cosa? Rumeni, zingarimi. Ah, rumeni, ho capito, lumini. Ah. Rumeni, i rumeni ce li metto io. Che ragazzo, vedi che c'hai una pasta amara. Rumeni albanesi, della sinofisa. Giuseppe. Eccolo, poco. Cosa stai combinando di buono, ho detto adesso? Ma niente, mi stavo controllando il telefono, no? Ho controllato l'orario e a momenti mi prendo un corpo. Cavolo, 20 minuti alle 11, anda bene, allora ho visto male poco fa io, credevo erano le 10 meno 20. Io sono fatta che ci canta il fratello in camera, non giocava io di quando abbiamo la pesseria, mamma mia. Per quello che sono qui in cameretta. Simona se lo sa guardare. Simona se lo sa guardare, a me non mi piace. Bro. Ma le donne lo guardano perché le piacciono i ceramiti. Sì, i ceramiti, rimane la 27 MHz, quella di 15 anni fa. Sembra di essere il grande fratello, siamo su 40 canali, c'è solamente 2024 anni di cosa. Là. Di frequenza e quindi uno fa le cose con l'altro. No, ma che mi fai capire? Come faccio con un preso che vuole allumare la pietra? Lui così ha detto che riceve la benzina per mettere fuoco la pietra. No, non si fanno quelle cose, non si fanno assolutamente. Quella della natura e bisogna lasciarla stare. Prima metto fuoco, poi lo faccio assumere alla forestale, a spegnere l'incendio, Anto. Non lo sento, sento solo il bip. Ho detto che prima mette fuoco e poi si fa assumere alla forestale per spegnere l'incendio. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo assolutamente. E tra mai io scherzo, ma c'è il periodo che è fatto così, diglielo. Per il lavoro non può rovinare la natura, mi dispiace. Devi ragionare che se quel gente fa così purtroppo per farsi assumere. E quelli che lo fanno per 3 mesi, per 6 mesi, che pure li citano, mettono fuoco per fare il rimboschimento. Di modo che quelli li assumano per fare il rimboschimento. Ma io li avrei arrestati uno per uno, li avrei accompagnati in galera a calci nel sedere. Uno per farsi il lavoro non può rovinare gli altri, non può rovinare greggi di pecore, pastori e quanto esiste. Prova a te, cioè, chi la pensa così, provi a guardare un video su internet. Dove racconta di un uomo che ha le mani bruciate, di quello che è successo a Corraggia. Prova a guardarvi, cioè prova qualcuno che la pensa così, provi a guardarsi quello, poi mi torna la risposta, cosa gli è successo. Io ho detto di curraggio, ho visto tutto, ho visto un film filmato intero, la gente che non so cosa, di quelli che sono morti, di quelli di morti, ho visto tutto quanto. Ciso si trasmette sempre quel filmato. Sì, sì, io ho visto tutto, l'ho visto, e qualcuno l'ha anche vissuta, qualcuno che so io. Sono immagini bruttissime, insomma, sono immagini bruttissime che non ci dovrebbe manco pensare, per procurarsi il lavoro di fare quelle cose lì, ma manco per scherzo. Sì, purtroppo lo fanno, purtroppo lo fanno. Beh, ragazzi, io riprendo un attimino, vi interrompo proprio giusto due secondi per dirvi che il Buon Giuseppe si ritira nel suo QRT. Buonanotte a tutti, buon riposo e ci sentiamo domani in una maniera o nell'altra. Ciao Giuseppe, buonanotte, ci sentiamo. Allora, approfitto anche io per salutarvi, saluti cordialmente e vi auguro buon lavoro per domani. Ciao Antonio, saluti gli altri amici, faccio quello che anche avanti, avanti. Allora chiudo pure io, intanto a Pomponio non lo sento, cosa devo fare? Ciao ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao, buonanotte a tutti quanti, statevi bene, e alle prossime. Ciao Pomponio, ti sento solo il bip, buonanotte, dai, ci sentiamo domani, o alle prossime, non ci sono problemi, ciao ciao. E ciao, alle prossime.